Padre, lo confesso, domenica scorsa, al posto che votare alle primarie, sono andato in vacanza. Perdono. Peccato, lo ammetto. Ora, per favore, mi fa votare.